fai galletto, non parlami mai sul luna, capito? Galletto. Dottoressa, io addirittura appuntamenti, non ci vengo, capitai. E domani faccio scoppiare a te e a tuo fratello. Adesso cosa vuol dire prendere per il culo a me? Eh? Che domani ti faccio scoppiare a te? Poi che si mette pure tua madre in mezzo a fare la tragedia, capito? Sono stata sana tua madre, aspetta. 24, 25, 50, 24, 25, 50, fate schiattare con la bagassona della madre, oh Cristian, che c'ha 29, 7, 70, l'ha schiattato, non hai visto che ha detto pronto, pronto, pronto, vedrai come schiatta stanotte tua madre, che auto, hai capito, quel porco, peggio della madre. Tanto domani mattina già mi diverto al telefono, zuppa. E domani, oggi deve ringraziare che fa l'agosto. Vedrà che si dovrà cambiare numero, il coglione. Auto in crepa! Che bello! Domani crepa! Domani crepa! Cappa! Continua.